Benvenuti. Oggi facciamo un approfondimento su un tema caldo. Come sta cambiando il mestiere dell'insegnante con l'arrivo, insomma, dell'intelligenza artificiale? Ci basiamo su un'analisi, direi, piuttosto critica che abbiamo esaminato. L'obiettivo è cercare di capire questa trasformazione verso una figura che La Fonte chiama edu-dirigente, quasi un manager, no? Dentro la scuola. Esatto. L'analisi che abbiamo letto, beh, guarda con un certo scetticismo a questa spinta che oggi è fortissima verso l'efficienza, la standardizzazione nell'istruzione. E l'IA chiaramente accelera tutto questo. Viene fuori un quadro dove la scuola sembra, diciamo, prendere logiche sempre più aziendali, dove conta soprattutto ciò che è misurabile, performante. Interessante proprio questa definizione, edu dirigente o insegnante manager 3.0. Mette subito in contrasto l'immagine, beh, tradizionale del docente con questa nuova figura. L'analisi suggerisce che compiti visti come poco efficienti, penso alla preparazione personale delle lezioni, alla riflessione pedagogica, ma anche al tempo per la relazione umana, vengano un po' sacrificati. Tutto in nome della gestione e dell'ottimizzazione. E la standardizzazione diventa quasi una garanzia di qualità. È così? Sì, La Fonte descrive proprio una metamorfosi verso quello che chiama l'impiegato esecutivo della scuola. Il punto critico, quello che solleva, è che le metriche di performance, prese dal mondo aziendale, faticano a, come dire, valorizzare aspetti fondamentali, ma appunto difficilmente quantificabili. Come misuri in un report la preparazione intellettuale di un docente o la qualità di una relazione educativa? Diventano quasi un problema per questo sistema. E qui, immagino, entra in gioco l'intelligenza artificiale generativa, presentata quasi come Una scorciatoia. una salvezza algoritmica, la chiama La Fonte. Si parla di strumenti che danno materiali didattici pronti all'uso, chiavi in mano. E i vantaggi promossi sembrano allettanti, no? Personalizzazione di massa, più produttività per gli insegnanti, creare contenuti con un semplice comando, un prompt. L'analisi cita persino esempi un po' così, tipo generare un testo su un gatto che va sulla luna, giusto per far capire quanto è facile. Sì, ma qui c'è un paradosso, secondo me affascinante, che La Fonte mette bene in luce. Da un lato ti dicono l'IA stimola la creatività. Però attenzione, la sua è una creatività, diciamo, statistica. Rielabora dati, non inventa come un essere umano. E mentre l'IA produce, l'insegnante rischia di delegare proprio la sua parte creativa. Si affida a pacchetti già fatti. È il classico soluzionismo tecnologico, no? Per ogni problema complesso una soluzione tech semplice. Il rischio, sottolinea l'analisi, è una dipendenza crescente, che porta a una deprofessionalizzazione alla fine. E gli errori dell'IA, che ci sono, Beh, la tendenza è a minimizzare, quasi fossero dettagli. Le conseguenze che l'analisi paventa non sono proprio leggere, eh? Si parla di rischio di atrofia del pensiero critico, della creatività pedagogica, sia per gli studenti che per gli insegnanti. Cita quell'aneddoto, forse qualcuno lo ricorda, del professore che usava ChatGPT per i feedback agli studenti. Risultato? Risposte un po' impersonali, standardizzate, da chatbot insomma. L'insegnante diventa un semplice operatore. L'analisi suggerisce proprio questo, una perdita della dimensione intellettuale del lavoro e anche della responsabilità personale, direi. Perché se i materiali li dà un algoritmo, che può sbagliare o essere limitato, di chi la colpa, diciamo, educativa? L'insegnante che usa questi strumenti senza un vaglio critico diventa, magari senza accorgersene, un esecutore. Ecco che torna l'immagine dell'impiegato esecutivo. L'autonomia, la capacità di giudizio quasi non servono più. Anzi, forse sono scoraggiate per favorire l'uniformità. Cambiano proprio le competenze richieste. Meno pedagogiche e critiche, più tecniche e operative. Devi saper usare lo strumento, ecco. È una critica bella forte a quello che La Fonte chiama tecno-ottimismo ingenuo e appunto al soluzionismo tecnologico. Sembra un approccio che ignora tutta la complessità umana, sociale, dell'educazione. Si arriva a parlare di cose quasi fantascientifiche, tipo il gemello digitale del docente, un avatar algoritmico che replica lo stile di insegnamento. Fa un po' impressione, devo dire. Ma la cosa cruciale da capire, e l'analisi lo dice bene, è che adottare questi modelli preconfezionati non è un destino, non è imposto dalla tecnologia in sé. È una scelta. Una scelta culturale, che privilegia l'efficienza misurabile e la standardizzazione, forse a scapito della profondità, del pensiero critico, dell'unicità dell'incontro educativo. La visione futura che viene fuori, secondo la fonte, è quella di una scuola efficiente, sì, ma che somiglia più a una distopia. Un panopticon digitale, lo chiama, dove tutto è controllato, ottimizzato, ma dove forse si perde l'essenza dell'imparare davvero. E questo, ci lascia con una domanda grossa, forse la più importante. Se questa logica dell'efficienza algoritmica prende il sopravvento, che spazio rimane? Che valori diamo all'interazione umana vera, all'errore come occasione per imparare, alla lentezza che serve per riflettere? Insomma, cosa vorrà dire davvero educare? Se il processo diventa una specie di catena di montaggio ottimizzata da algoritmi? Una bella domanda su cui riflettere.